Buonasera cari radioascoltatori e bentornati a Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa in studio e da Michele in regia. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Sì, buonasera Annalisa e buonasera al nostro regista di questa sera. Dunque, Alessandra, ti ripasso la parola per l'introduzione del tema di questa sera, come sempre Giro di Boa al passo dell'attualità. Sì, esatto, Annalisa. Giro di Boa è sempre al passo con l'attualità e questa sera discuteremo, cercheremo di capire come si è arrivati all'attuale pesante situazione di crisi finanziaria in Grecia, una crisi che a quanto pare rischia di avere conseguenze in tutta l'unione economica e monetaria, dunque nella cosiddetta eurozona e dunque avere conseguenze anche in Italia. Una crisi molto profonda. Con il nostro ospite in collegamento analizzeremo le misure che sono state richieste da Bruxelles al governo ellenico per risolvere questa profonda crisi e che cosa questa crisi comporta, appunto come dicevo prima, per gli altri stati membri dell'Unione Economica e Monetaria. Per finire poi tenteremo di fare un paragone fra l'attuale situazione in Grecia e la situazione in Italia per valutare se sia realistico aspettarsi che una crisi di queste proporzioni tocchi anche il nostro paese oppure se sia il caso di aspettarsi un effetto domino e dunque partendo dalla Grecia avere altri paesi come Spagna, Portogallo, Italia o magari Irlanda rientrare nella crisi. Annalisa, vuoi presentare il nostro ospite? Sì, ne parliamo questa sera con Massimo Bencardino, responsabile di Private Banking alla banca Montepaschi Belgio. Ciao Massimo. Buonasera a tutti. Buonasera e soprattutto bentornato a Giro di Boa. Grazie a voi per l'invito. Dunque, ti vorrei chiedere innanzitutto se puoi cominciare a tracciare un quadro della situazione e spiegare ai nostri radioascoltatori in maniera semplice che cosa sta succedendo in Grecia e come si è arrivati a questa situazione. Sì, ecco, diciamo che la situazione è relativamente semplice da spiegare, nel senso che la crisi finanziaria, la crisi dei mercati che abbiamo vissuto a partire dall'autunno del 2008, che poi è diventata una crisi economica generale, ha colpito non soltanto le imprese ma anche gli stati, perché semplicemente al momento in cui le imprese producono meno e c'è una diminuzione dell'impiego, quindi un tasso di disoccupazione che cresce, la produzione generale diminuisce e di conseguenza il gettito dello Stato diminuisce, allorché le altre spese correnti ovviamente non diminuiscono in periodo di crisi, sto pensando soprattutto alle pensioni e alla sanità. Ciò significa che in sostanza la famiglia Grecia, che immaginiamola come una famiglia, come una famiglia deve gestire il suo proprio budget, si trova a spendere più di quello che riesce ad intascare. Questo disavanzo causa grossi problemi, una mancanza di credibilità sulla scena internazionale e rischia di scatenare un effetto estremamente nefasto, che è quello poi che insomma è sotto gli occhi di tutti, la necessità di un salvataggio esterno per poter continuare per evitare di una bancarotta, di fare fallimenti, insomma. Quindi. Massimo, tu hai citato giustamente un salvataggio per evitare la bancarotta. Quali sono dunque le misure che Bruxelles ha chiesto al governo ellenico e quali sono soprattutto le misure che il governo socialista prenderà? Ma soprattutto la cosa più importante, queste sono soluzioni praticabili? Allora, diciamo che c'è una grossa polemica dal punto di vista di ciò che la Grecia ha dichiarato un orizzonte temporale triennale e che sarebbe quello di riportare il rapporto deficit-PIL, che attualmente si trova sforato il 12%, all'interno di un 3% che è quello previsto dal patto di stabilità. Lodevole come intento, dubbi quanto alla possibilità reale di vedere questo obiettivo raggiunto nei termini prefissati, perché diciamo che in passato nessuno è riuscito a realizzare una performance così buona tra gli altri paesi dell'Unione Europea, dell'Unione Economica e Monetaria. Di conseguenza Massimo, scusami, se mi segui, se mi consenti un secondo, c'è una dichiarazione di Papa Costantinou, che è il ministro delle finanze greco, che appunto ha dichiarato che quello che stanno tentando di fare è di cambiare il corso del Titanic, ma giustamente questa non è cosa che si può fare da un giorno all'altro. Quello che è anche vero è che la Grecia attualmente ha un deficit pubblico a livello del circa 12,7% del prodotto interno lordo e quello che loro hanno dichiarato, come giustamente tu dicevi, è di portarlo all'incirca sotto l'8,7% per la fine di quest'anno e dal 3% per il 2012. Dunque sono cifre molto, come dire, sognatrici forse. Sono obiettivi molto ambiziosi, esattamente. Diciamo c'è stata un po' di critica da parte del mondo finanziario, anche dal mondo politico europeo, sto pensando ai paesi che sono in prima linea, l'asse franco tedesco per il salvataggio, per un piano, per la proposta di un piano di salvataggio della Grecia. In ogni caso è vero che la tendenza deve essere quella, quindi magari diciamo, per usare un'espressione gergale, hanno sparato alto, hanno tirato in alto e in ogni caso sarà lodevole se riusciranno ad ottenere un risultato anche inferiore a quello dichiarato, ma l'importante è avere una tendenza che sia quella positiva e che sia soprattutto rapida. Poi se non riusciamo a tornare sotto il 3% sull'arco di 3 anni, ma magari ce ne vorranno 5, ma l'importante è che ci sia un grosso sforzo in questo senso. Ciò che è peccato è che perché la Grecia si è trovata in questa situazione? Perché insomma è un'economia comunque piccola e è sempre stata storicamente fragile, diciamo anche che a quanto sembra c'è stata una sorta di falsificazione, mettiamolo tra virgolette, si è parlato un po' di finanza creativa sui conti al momento soprattutto dell'ingresso nell'Unione Economica e Monetaria e anche successivamente per far quadrare un po' il bilancio, insomma questi sono stati degli escamotage magari da provare a capire esattamente quali sono, qual è il grado di responsabilità e qual è il livello di falsificazione, ma denota un'incapacità secondo me di base di effettuare le riforme necessarie per il sistema economico, per rilanciare la competitività del paese Grecia e per combattere quello che un po' tutti gli stati devono combattere, ma anche la Grecia in primo luogo, visto che nell'ultimo decennio non l'ha fatto troppo, e cioè razionalizzare tutto ciò che è sanità, spese sanitarie, oltre che le pensioni ovviamente, combattere la corruzione e qualcosa che insomma è estremamente alla moda, la lotta all'evasione fiscale. Quindi questi sono una serie di una serie di punti sui quali secondo me la Grecia negli ultimi anni è venuta un po' meno. La gestione è stata fatta in maniera disattenta, un po' troppo distratta e con anche false promesse elettorali, e si sono trovati poi la brutta sorpresa i nostri cugini greci di questo annuncio shock del mese di dicembre scorso sui conti del paese. Riforme strutturali che chiedono tempo per essere approvate, ma ancora e soprattutto richiedono tempo per essere adottate e di conseguenza per dare i primi risultati. Tu parlavi di 3 anni, secondo te sono realistici? Ripeto quello che dicevo prima, che personalmente non penso siano realistici, anche basandosi sull'esperienza un po' storica dell'ultimo decennio e l'evoluzione dei conti dei paesi dell'Unione Europea e dell'Unione Economica e Monetaria in particolare. Detto questo, ripeto, magari la Grecia non riuscirà a farlo in 3 anni, ma in 5 penso che sia comunque un risultato importante se la tendenza è quella giusta. Massimo, vorrei tornare. L'Unione Europea sta cercando, giusto termino questo, ha inviato una missione che dovrebbe forse tornare a rientrare oggi da Atene, composta da Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, esperti della Commissione Europea per valutare, per studiare, per analizzare, per discutere del piano di raddirizzamento, definiamolo così, che la Grecia si è impegnata ad intraprendere. Hai menzionato l'Unione Europea, vorrei ritornare un attimo appunto all'approccio che l'Unione Europea ha preso per cercare di risolvere questa crisi. Finora è comunque prevalsa la linea tedesca, cioè quella di rifiutare di dare esplicite garanzie di aiuto e di salvataggio alla Grecia. Non pensi che così facendo si possa correre il rischio di minare comunque la solidarietà politica che è anche alla base dell'euro? Diciamo che il problema dal punto di vista tedesco è in un certo senso interno, poiché la Corte Costituzionale sembra essersi pronunciata in un senso tale da voler che l'Unione Economica e Monetaria rispetti gli impegni presi, in particolare il patto di stabilità e crescita e in particolar modo anche l'obiettivo di inflazione, che è l'obiettivo principale della Banca Centrale Europea, al 2%. Se qualora si cominciasse ad ammorbidire eccessivamente queste regole, la Germania dovrebbe, vista la legge che è stata approvata attualmente, visto il pronunciamento della Corte Costituzionale, uscire dall'Unione Economica e Monetaria, cosa che ovviamente sarebbe una catastrofe assoluta. Quindi si cerca un metodo formalmente accettabile per comunque venire in soccorso alla situazione greca e riportare una certa stabilità e una fiducia nei confronti di questo paese e rinforzare la solidità del sistema della zona euro. Quello, il problema più grande, il problema che si è sollevato in tanti altri casi, è che l'Unione Europea è un gigante economico e anche l'euro stesso è una moneta molto importante, una moneta forte, ma il quadro politico che c'è attorno è molto più fragile, molto più debole, molto più sensibile, molto più variegato. Come lo sappiamo, l'Unione Europea si tiene su degli accordi che sono piuttosto larghi dal punto di vista politico, molto più stretti e astringenti dal punto di vista economico, ma gli Stati hanno ancora, secondo me, troppa indipendenza, hanno ceduto poca sovranità in questo senso, e nei momenti di crisi e di difficoltà si vede che viene meno, non esiste uno strumento, una possibilità di reazione efficace, non esistono procedure di assistenza finanziaria che siano appunto previste per situazioni di questo tipo. Insomma, ci siamo trovati ad avere una crisi, la crisi di un paese dell'Unione Economica e Monetaria, senza aver previsto in anticipo le misure per poter venire in soccorso di colui il quale si trova in difficoltà, insomma. E il più grosso problema deriva proprio da questa mancanza di coordinazione, questa deficit, direi, questa debolezza nella coordinazione, nell'armonizzazione di tutta una serie di politiche, che siano politiche economiche, salariali, fiscali o più generalmente macroeconomiche. Massimo, tu facevi riferimento alla mancanza di uno strumento efficace che possa determinare una reazione dell'Unione Economica e Monetaria. Che cosa pensi del patto di stabilità, patto che è stato adottato il 1 gennaio del 99 con l'adozione dell'euro, il patto che prevede, se non ricordo male, che il deficit pubblico non deve superare il 3%, abbiamo appena citato quello della Grecia che è oltre il 12%, per cui quel sistema creato dal patto di stabilità, che prevedeva tre fasi, avvertimento, raccomandazioni ed in seguito sanzioni, non ha funzionato con la Grecia, oppure il patto non è più considerato patto, dunque non è più considerato quale una regola da rispettare? Cos'è che ha fallito in questo sistema? Perché a me pare che la regola fosse stata creata, poi però magari non è stata, diciamo così, rispettata in pieno? Hai ragione tu quando dici che sono perfettamente d'accordo col fatto che il patto sia stato interpretato in maniera più o meno soggettiva a seconda dello Stato che veniva a mancare agli impegni. Diciamo che sono state fatte grosse critiche anche nei confronti di Germania e Francia, perché al momento in cui ci sarebbe stato motivo per intraprendere una procedura di avvertimento nei confronti di questi paesi, in un modo o nell'altro il procedimento si è inceppato, è stato affossato. Al momento in cui invece si tratta di paesi politicamente meno pesanti, tra virgolette, si è stati molto più fiscali, molto più precisi, molto più puntuali nell'applicazione della regola. Secondo me il patto di stabilità e crescita ha una sua importanza. Non sono d'accordo con coloro i quali dicono che bisognerebbe ammorbidirlo estremamente, perché ammorbidirlo troppo porterebbe a eliminarlo completamente. Penso al contrario, che sia necessario affiancarlo da altri provvedimenti e considerare una situazione economica generale che può essere spalmata su diversi anni e non un elemento puntuale. È chiaro che in un momento di crisi economica come quello attuale gli stati hanno più difficoltà a rientrare in questi parametri. Secondo me bisognerebbe puntare più a una crescita sana e solida e a dei conti magari più controllati ma che non siano falsificati o comunque non siano distorti, ma su un lungo periodo, quindi che ci sia una tendenza, che si analizzino le tendenze, non le situazioni puntuali del deficit di un anno piuttosto che dell'altro, ma guardarli su periodi un po' più lunghi. Ma la Grecia è stata colpita da questa procedura per deficit eccessivo negli anni scorsi? Sono diversi paesi che sono stati colpiti da queste procedure, l'Italia stessa, e la procedura nei confronti dell'Italia si è chiusa nel 2008, era stata lanciata nel 2005, ma il problema secondo me è relativo, anche perché poi della Grecia attualmente diciamo se ne parlava poco, se ne è parlato poco fino al momento in cui al mese di dicembre il primo ministro ha annunciato la cattiva notizia, svelando la situazione reale dei conti del paese. Quindi diciamo è un campanello d'allarme il patto di stabilità e crescita, non è la panacea, non è la soluzione a tutti i problemi che i paesi possono avere, anche perché, ripeto, sono due criteri, quelli che hai citato poco fa, deficit PIL non superiore al 3% e debito pubblico inferiore al 60% del PIL, sono due criteri estremamente importanti, ma non dicono tutto, ecco. Diciamo, se vogliamo fare anche un confronto tra Italia e Spagna, magari ci possiamo arrivare dopo se volete, la Spagna è cresciuta a ritmi molto più elevati, restava nella maggior parte degli anni dell'ultimo decennio all'interno di questi criteri, ma si trova adesso in una situazione molto più delicata rispetto a quella dell'Italia, perché è stata una crescita che si è basata moltissimo sull'indebitamento, mentre l'Italia è una situazione più sana, l'indebitamento è molto più basso. L'indebitamento, parlo delle famiglie, non dello Stato, perché l'indebitamento dello Stato è estremamente elevato, ma la crescita è debole e fragile, ci sono momenti di recessione stimata sull'ultimo anno al 4,9%, quindi un'evoluzione negativa del 4,9% del prodotto interno lordo italiano, ma sul lungo termine la crescita è debole e fragile, ma è costante e soprattutto basata su delle fondamenta solide, al contrario di quello che avviene in altri paesi. Questo per dire, e mi ricollego con quello che dicevamo poco fa, che i criteri, quindi il patto di stabilità, sono soltanto una parte della realtà e bisognerebbe forse fare attenzione anche a tutto ciò che c'è attorno. Massimo, ti volevo chiedere un chiarimento su un'espressione che hai utilizzato che mi ha fatto particolarmente ridere. Hai utilizzato un'espressione finanza creativa. Ora, siamo nel 2010, cosa significa finanza creativa? E soprattutto, può uno Stato, quale la Grecia, membro dunque dell'Unione Economica e Monetaria, falsificare, fra virgolette, le statistiche o comunque dichiarare cose che non siano... utilizzare una finanza creativa, usiamo pure il tuo termine, per dichiarare quelli che sono il suo deficit pubblico, quelli che sono il disavanzo, in una situazione come quella dell'Europa, in cui comunque tutti sono portati a mostrare i conti pubblici, perché se lo fa la Grecia, sì, mi viene da dire magari lo fa anche qualcun altro. Certo, certo, questo solleva il problema, poi torno alla tua domanda, della sorveglianza, che voglio dire, si è parlato tanto di solidarietà da parte degli altri stati e di responsabilità da parte di coloro i quali si trovano in difficoltà, ma è vero che un po' di controllo in più non farebbe male. Per venire alla tua domanda sulla finanza creativa, non voglio permettere di lanciare giudizi sulla situazione greca, perché sono cose abbastanza tecniche che non ho avuto modo di analizzare, ma in generale si parla di finanza creativa quando si comincia ad operare in maniera, ad operare sui conti, a far leggere quindi infine il bilancio di una società, come in questo caso di uno Stato, in maniera da far passare certi elementi del bilancio, a trasformarli in modo da renderli meno visibili o in ogni caso meno leggibili. C'è da dire anche, ecco, per restare sulle società, che negli ultimi anni i sistemi contabili sono stati cambiati, si passa da una contabilizzazione degli attivi in valore storico, il valore contabile, a quella che è definita fair value, cioè valore di mercato. Le nuove norme IAS e IFRS hanno comportato un elemento di volatilità in più, e che probabilmente poi nella gestione anche di un bilancio come può essere quello di un paese come la Grecia, ha permesso, attraverso l'utilizzazione degli swap, quindi degli scambi, delle coperture che la Grecia ha potuto operare, di creare un'immagine che non era esattamente quella reale. Non è chiarissimo, ma non è molto, molto semplice da spiegare nei meccanismi. Massimo, ritieni ci siano dei rischi che si possa creare un effetto domino che possa colpire altri paesi della zona euro che hanno problemi con i conti pubblici? Per esempio c'è chi ha timori per il Portogallo, Irlanda, Italia e Spagna, mentre per esempio il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, ha dichiarato che secondo lui invece non ci sono rischi di contagio. Tu che cosa ne pensi? Sì, hai citato proprio quelli che sono definiti con un acronimo poco simpatico, i PIGS, quindi Portogallo, Italia, adesso a quanto pare ci sono due i, c'è anche l'Irlanda, la Grecia ne abbiamo parlato e la Spagna, sono paesi che hanno ognuno le sue difficoltà, ognuno le sue peculiarità, non penso sinceramente che ci possa essere un effetto domino. L'Italia ha avuto l'apprezzamento qualche mese fa da parte dell'Unione Europea per le azioni che sono state intraprese per mantenere la solidità del sistema finanziario, del sistema della situazione dei conti italiani. La Spagna, lo dicevo poco fa, e l'Irlanda anche, sono cresciute molto negli ultimi anni, quindi avevano un PIL che cresceva a una velocità tripla, se non superiore a quella di stati come l'Italia, ma che si sono basati su elementi come l'indebitamento e che hanno portato a una fragilizzazione, un'estrema fragilizzazione. Detto questo, penso che i rischi sarebbero grandi laddove si lasciasse la Grecia in balia di se stessa. Al momento in cui invece si trova una soluzione e le dichiarazioni in occasione dell'ultimo consiglio, l'ultima riunione del Consiglio dell'Unione Europea di Van Rompuy stesso vanno nel senso di una solidarietà collettiva che impedirà alla Grecia di fallire. Detto questo, resta ancora da definire in maniera concreta come farlo, ma penso che l'espressione della volontà sia piuttosto chiara e inequivocabile. Massimo, un'ultima domanda prima di salutarci. Come ricordavo prima nell'introduzione, una delle paure è l'effetto domino che abbiamo appena, di cui hai appena parlato, l'altro è magari la paura che una crisi simile possa colpire l'Italia in un futuro prossimo, viste soprattutto le somiglianze, magari solo apparenti, tra Italia e Grecia, nel senso che tu hai appena citato che l'Italia ha avuto degli apprezzamenti da parte di Bruxelles per quanto riguarda le riforme del sistema finanziario, però ricordiamo che la crisi greca dipende anche dal fatto che in Grecia c'è un'evasione endemica, un'economia occulta molto alta, una corruzione che a quanto pare anche è elevata e soprattutto c'è un forte debito pubblico, quattro cose che in Italia sono, come ben sappiamo, ben presenti e soprattutto noi abbiamo un debito pubblico che è molto maggiore a quello della Grecia, nel senso che supera il 100% del prodotto interno lordo. Tu cosa ne pensi? Un'ultima battuta prima di chiudere. Sì, sono d'accordo sul fatto, cioè è un dato di fatto, si parla di un 117% di debito pubblico per l'Italia sull'ultimo anno, sono verissime il paragone che è appena fatto, quindi sulla situazione dell'economia sommersa, la corruzione e quant'altro. Penso però che a dispetto della Grecia, l'Italia, che pure è stata criticata tantissimo per la scarsezza, per la debolezza della sua competitività e per il fatto di non essere troppo basata su quello che è stato definito un triangolo magico, cioè servizi, liberalizzazione e meritocrazia, ma come accennavo poc'anzi, ci torno adesso in maniera un po' più approfondita, il risparmio delle famiglie dà una solidità al sistema paese, al sistema Italia e all'economia tutta. Se anche le famiglie italiane si fossero indebitate come quelle spagnole o come quelle irlandesi, avremmo anche noi avuto dei tassi di crescita molto più elevati, ma ci troveremmo adesso nella situazione che sta vivendo la Spagna, ad esempio. Ciò significa che, credo e stimo, sulla base dei dati macroeconomici che sono sotto gli occhi di tutti, anche della realtà economica del paese, sappiamo benissimo che l'Italia ha una rete di piccole e medie imprese estremamente importante, e che il rischio reale di trovarsi in una situazione del genere non c'è. Voglio dire, la situazione, l'economia italiana è un'economia che possiamo definire sana. Un esempio per tutti che posso citare è l'export delle manifatture, quindi tutto ciò è settore manifatturiero, è l'unico, insieme a quello, il settore manifatturiero italiano è l'unico, insieme a quello tedesco, in tutta l'Unione Europea, ad aver tenuto sul mercato mondiale nell'ultimo decennio, diciamo piuttosto tra il 2000 e il 2008, mentre tutti gli altri paesi sono crollati letteralmente, si sono fatti rosicchiare pian piano, come sappiamo, dalla Cina, che dal sesto è diventato primo esportatore mondiale. L'Italia e la Germania sono gli unici due che hanno tenuto la posizione sull'export mondiale. Questo ha, secondo me, è indicativo di quella che è la forza e la potenzialità del nostro paese. Massimo, non ci resta che ringraziarti per la tua disponibilità e soprattutto per la tua chiarezza. Annalisa, hai qualcosa da aggiungere? Non ho nulla da aggiungere, se non un caloroso ringraziamento a Massimo per il suo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e ovviamente speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Dunque, Alessandra, prima di fare una pausa musicale, prima quindi di introdurre poi il secondo tema di questa sera con un ospite speciale, come i nostri cari radioascoltatori presto sentiranno, vorrei fare un piccolo annuncio che mi è stato passato dai colleghi di 100 Città, la trasmissione qui a Radio Alma che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì sera, appunto prima di Giro di Boa. Dunque, ci sarà un concerto il 26 febbraio della Benito Band, un gruppo musicale che è stato ospite a 100 Città la settimana scorsa, un concerto per raccogliere fondi per Haiti il 26 febbraio alle 20:30 in un locale che si chiama Lex in Rue de la Loi numero 40 qui a Bruxelles, entrata 4 euro, quindi una raccolta, un concerto, raccolta di fondi per Haiti. Facciamo quindi una pausa musicale, poi sull'onda della canzone che Michele manderà tra poco, poi ci collegheremo con il prossimo ospite e anche con il prossimo tema di questa puntata. Cari radioascoltatori, siete tornati a Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Come stavo dicendo appunto prima della pausa musicale, stavo dicendo che sull'onda della canzone che Michele, il nostro regista, ha mandato in onda, ci saremo collegati con il secondo ospite di questa sera e avremo poi introdotto il secondo tema di questa sera. La canzone è una canzone di Irene Fornaciari e dei Nomadi, che è stata presentata la settimana scorsa al Festival di Sanremo. Passo quindi la parola ad Alessandra per l'introduzione di questo secondo tema. Sì, esatto, Annalisa, come giustamente tu dicevi, una canzone dell'ultimo Festival di Sanremo. Dunque, come i nostri amici radioascoltatori ben sapranno, il 60° Festival della Canzone Italiano si è concluso la settimana sabato scorso, è stato condotto quest'anno da Antonella Clerici, la quale ha contribuito a creare un clima da sagra paesana. Inevitabilmente ci sono state critiche e commenti di ogni tipo, quest'anno come molto, molto di più probabilmente delle scorse edizioni. Anche grazie all'assenza di una seria controprogrammazione dalle altre reti, il festival quest'anno è stato premiato dagli indici di ascolto. La serata finale è stata infatti vista da più di 12 milioni di telespettatori, il che rappresenta il 53,21% di share. Non sono passate inosservate comunque le contestazioni, come forse mai prima viste. Infatti il pubblico dell'Ariston ha contestato con fischi ed urla, mentre invece l'orchestra ha pallottato gli spartiti e li ha lanciati. Con il nostro ospite, che è già in collegamento con noi, cercheremo di capire questa sera se il festival rappresenta ancora in fondo lo specchio del nostro paese oppure no. Annalisa, ti passo la parola per presentare l'illustre ospite di questa sera. Cari radioascoltatori, un ospite davvero speciale questa sera a Giro di Boa. Abbiamo in collegamento qui da Bruxelles il nostro direttore Roberto Giava. Buonasera direttore. Credo che ci siano dei problemi di collegamento con il direttore. Se lui magari non ci sente, proviamo. Chiedo conferma a Michele in regia. Credo che abbiamo perso Roberto Giava. Sì, io direi praticamente di fare così, di mandare magari un piccolo stacco musicale che provo a richiamarlo, ok? Certo, mandiamo quindi una piccola pausa musicale e nel frattempo ripristiniamo il collegamento. Tornati in onda, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, è stato ora risolto, abbiamo ripristinato il collegamento con il nostro ospite di questa sera, stavo dicendo un ospite davvero speciale, il nostro direttore Roberto Giava. Buonasera direttore. Buonasera a tutto il pubblico che ci ascolta da casa, buonasera a te Annalisa. Buonasera anche a te Roberto, da Alessandra. Beh, fa uno strano effetto sentire il direttore alla regia dall'altra parte, comunque. Caro direttore, allora... dall'altra parte del vetro, ma molto più in là, ma molto più dall'altra parte del vetro. Direttore, hai seguito il Festival di Sanremo quest'anno? Beh, come tutti gli anni, devo dire, alla fine sì, perché nonostante i buoni propositi di non farlo, poi c'è una volta un motivo, una volta l'altro, e alla fine ci si ritrova con la famiglia, eccetera, spesso davanti alla TV la sera, e quando c'è il festival, o perché lo vuole la mamma o perché lo vuole la moglie, si catalizza l'attenzione poi sul festival. Comunque devo dire che sì, si fa molta ironia e penso che molti la facciano, però poi alla fine molti di quelli che dicono che non lo vedono, poi lo vedono effettivamente il festival. Io forse sono uno di quelli, ecco. E qual è il primo giudizio che hai espresso vedendo il festival? Ma intanto devo dire che la qualità della conduzione era alta quest'anno come anche l'anno scorso. Abbiamo conosciuto, ahimè, dei picchi negativi, però quelli dell'anno scorso con Bonolis e di quest'anno mi sono sembrati dei picchi positivi, all'altezza un po' della manifestazione canora. Poi il festival, guardate, sia la conduzione, la presentazione, che tutto quello che c'è intorno, gli ospiti che ci girano, con tutte le polemiche che poi si fanno sugli ospiti, il cachet, eccetera, alla fine è proprio lo specchio del paese. Io ogni tanto penso, dico, guardare quattro puntate del festival equivale a guardarsi un anno intero di Porta a Porta, di Ballarò e di Anno Zero, perché alla fine stiamo parlando dello stesso paese d'Italia, e che a volte, ecco, attraverso alcune trasmissioni viene fuori in certi modi, ma attraverso il festival viene fuori proprio quello che è. Quest'anno poi andiamo anche dei casi particolari di parlarne anche. Alla fine, io spero che anche voi poi l'abbiate visto, ecco, sì. No, alla fine dicevo, ha prevalso, sono i personaggi che hanno prevalso, sono stati quelli che sono molto televisivi, o forse anche bisognerebbe dire troppo televisivi rispetto ad altri, e che di conseguenza il pubblico da casa poi è abituato a televotare. Basti pensare che sul podio all'ora della fine c'è stato uno di Amici, uno di X Factory e due che vengono dai raccomandati, di cui tra uno dei raccomandati ha vinto alcuni anni fa l'edizione di Ballando con le Stelle. Siamo di fronte ad una video repubblica, come l'ha chiamata qualcuno. Bella, questa mi è piaciuta. Infatti avrei voluto sentire un po' l'opinione di Nicoletti su questa tua affermazione, ma comunque vi dirò la mia, che è molto più bassa e più infima. Ma di fatto, ecco, per qualche motivo sono arrivati in finale tre nomi. Uno è quello del Principe Filiberto e di Pupo, e di un tenore che nessuno conosceva, perché era anche bravo. Gli altri due erano al grande pubblico, cioè a coloro i quali non seguono Amici, a coloro i quali non seguono X Factor, erano nomi che comunque sono secondari. Far arrivare in finale Emanuele Filiberto contro uno che si chiama Scano, uno che si chiama Mengoni, vuol dire consegnare a Emanuele Filiberto e a Pupo la vittoria del festival. E hanno sfiorato, perché alle 23:30, un'ora prima che si chiudesse l'operazione del televoto, erano in testa. Erano decisamente in testa Emanuele Filiberto e Pupo. E poi è successo, c'è stato uno scatto via SMS, eccetera, questo poi secondo me è anche qualcosa di cui si dovrebbe leggermente approfondire, uno scatto per cui negli ultimi 50 minuti il Principe Filiberto con Pupo avrebbero preso soltanto 1800 voti, mentre Scano avrebbe preso nello stesso tempo qualcosa come 96.000 voti. Se questo è vero, non si capisce allora come mai tre finalisti che per essere arrivati in finale devono avere numeri equivalenti, in un'ora poi uno fa 50 volte meglio dell'altro. se c'è qualcosa che andrei a approfondire. Poi uno può dire sì, ma i giovani hanno votato con gli sms in massa rispetto a chi vota invece una canzone storica come quella di Emanuele Filiberto, e potrebbe essere una giustificazione. Però fa capire come effettivamente il meccanismo del televoto è un meccanismo perfido, perché non è vero che è democratico, è l'opposto, è tutt'altro che democratico, anche il festival è tutt'altro che democratico. E non è vero che tutti possano partecipare, partecipa chi ha già un nome, chi ha già un collocamento, chi ha già una speranza di vendere i dischi, di CD. Questo va anche detto. E il televoto è lo specchio poi del festival stesso. Ma insinuazioni... poi devo dire che... sì, dimmi. No, dicevo che insinuazioni per aver pilotato la vittoria sono anche giunte dalla Codacoms, l'associazione in difesa dei consumatori, che ha dunque richiesto alle autorità appunto di visionare i tabulati per verificare questa cosa che giustamente tu citavi. Ma io volevo ricollegarmi a quello che tu hai appena detto sul cognome di Emanuele Filiberto per farti una domanda magari forse un po' meno frivola. Dopo la vittoria con Ballando sotto le stelle e il secondo posto al festival, sembrerebbe naturale pensare che ad una vasta parte degli italiani piaccia Emanuele Filiberto. Nutrire sentimenti negativi, a quanto pare, non è molto semplice, o sembrerebbe addirittura difficile, in quanto il ragazzo è comunque simpatico. Dico nutrire sentimenti negativi in quanto ovviamente questi sono sentimenti che per ragioni storiche e altre hanno caratterizzato il nonno e il padre di Emanuele Filiberto. Cosa pensi tu di questa personalità che è sempre più mediatica? Come dicevo all'inizio, che alla fine ciò che sale su quel palcoscenico è un po' l'immagine, l'emblema dell'Italia. Quando 20, forse 25 anni fa, è salito Gruppo Cutugno con la sua canzone d'italiano, era l'emblema dell'Italia di allora. Quando oggi sale il principe Filiberto con Pupo e il tenore e cantano qualcosa di molto simile, è segno che l'Italia è ancora legata agli schemi che lui ha incarnato. La sua personalità, invece, secondo me suscita molte più simpatie di quante... Di quante si potesse pensare all'inizio, perché è vero, sì, ha vinto un altro programma, in un'altra occasione, però c'è di vero che quando la gente è chiamata a esprimersi su un volto, perché lì si premia la canzone ma si premia anche chi la canta, è portata a consolidare un voto sulla persona che ha già raccolto consensi tra il pubblico. In questo caso il principe è già entrato negli schermi di tutte le case abbondantemente, e cosa che invece non è successo né per Scavo né per Mengoni, per quanto siano bravi eccetera, non è successo. Il televoto, meccanismo appunto ripeto perfido, ha fatto sì che chi riuscisse nella manifestazione canora, che poi canora non è soltanto una manifestazione di Sanremo, chi riuscisse era esattamente quel gruppo, quella persona che aveva già le armi per poterlo fare, a prescindere dalla canzone, a prescindere dal contesto canoro. E per quanto si possa dire che sia Scanti e Mengoni venivano da altre realtà televisive come X Factor e Amici, non c'è paragone contro chi invece veniva non soltanto da una trasmissione recentemente terminata, che è quella di Ballando sotto le stelle, ma veniva anche da un'esperienza politica che aveva dato comunque visibilità, e veniva da tutta una serie di presenza mediatica, perché il suo volto lo vediamo in TV da più di 10 anni, sistematicamente, prima addirittura dell'ingresso nel paese di Savoia, cioè il principe Filiberto era già una personalità mediatica, era già oggetto di interviste, in realtà non di persona, era comunque oggetto di interviste, oggetto di attenzione anche di famiglia. Era il principe, il rampollo, il bello, il belloccio, che dir si voglia. A me personalmente sta anche molto simpatico, perché alla fine è un ragazzo che si mostra semplice, che cerca di vivere un po' la sua condizione al di là dello schema del Savoia. Lui è un Savoia, lui parla come parlano i Savoia, ha l'accento del Savoia e vive la vita del Savoia, però è evidente che questa cosa lui non ne fa un'arma per emergere, non ne fa uso. Chiaro, quindi alla gente questo suscita molta, molta simpatia. Io sono sicuro che se si candidasse in politica sarebbe un altro discorso, perché lì chiaramente subentrano in gioco altri fattori, però in queste cose più frivole, nel Sanremo, nel Ballando sotto le stelle, eccetera, magari farà, che ne sappiamo, farà un'isola delle famose, lì avrà sempre probabilità di riuscita. Beh, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che quando il principe Emanuele Filiberto si è candidato in politica alle ultime elezioni politiche italiane è stato anche nostro ospite qui a Giro di Boa in un dibattito politico. Direttore, siamo purtroppo in chiusura, un'ultimissima battuta su Italia amore mio, la canzone di Pupo, Emanuele Filiberto e di Luca Canonici, il tenore. Un ultimo commento, un'ultima parola per definirla. Per me è stata abbastanza imbarazzante, lo dico fuori dai denti, perché è una canzone che non si può portare a un festival, e se uno la porta è una canzone che non può entrare nella finale, non perché non ne abbia diritto, ma perché è una canzone fuori dai tempi, assolutamente antistorica, una canzone del tutto fuori luogo, che con se guardate bene, poi con le altre canzoni che invece hanno ottenuto i voti maggiori, da Scanu a Mengoni, ma anche la Maligaiane, anche Irene Grandi, sicuramente ne dimenticano alcuni altri molto bravi, non c'entra nulla. Cioè, mentre il festival, che non è una manifestazione canora, ma è soltanto un festival di Sanremo, cioè perché il cartina di tornasole del nostro paese, e si arricchisce di una varietà di come dire, punte anche eccentriche, questa è una di quelle, e delle canzoni riescono in qualche modo a creare quella visibilità che si meritano, come appunto la canzone di Maligaiane, per esempio. Per qualche motivo è arrivata fino in fondo, parecchio in fondo, e ha anche rischiato di vincere, ma è una variabile impazzita una canzone del genere nel nostro festival. Un'ultima domanda con una risposta brevissima. Quanto ha influito citare la nazionale di calcio e avere il CT della nazionale Lippi sul podio? Per i baresi nulla, perché i baresi odiano Lippi in quanto non mette Cassano in nazionale. No, a parte questa battuta, credo che comunque abbia influito, anche perché nella esibizione poi di quella stessa serata, se non vado errato, sì, in quella stessa serata, con le spalle, hanno cambiato il testo e l'hanno adeguato alla nazionale italiana, parlando di Cannavaro, l'Inzaghi, eccetera, e con le immagini dietro degli azzurri che a Berlino 2006 esultavano sul rigore vincente di Grosso. Questo prende un po' le corde sensibili dell'animo umano. Le persone sportive, poi per la nazionale italiana, lo siamo un po' tutti, hanno subito associato la canzone a un ricordo bello, e questo forse ha giocato in qualche modo positivamente. Anche qui, ripeto, se andiamo a fare un'analisi attenta, dovremmo dire no, ma questo non è legale, non è lecito, è un vantaggio sproporzionato rispetto alle altre canzoni. Però è così, ecco, il festival è appunto il festival, è anche questo. Intelligenti loro che ci sono arrivati rispetto agli altri, certo, mediatici. Certo, ma non difettano sicuramente di intelligenza, anche un pizzico di furbizia. Mi riferisco al fatto che poi una parte, diverse note consecutive del brano sono poi una riproduzione fedele, quindi un plagio di un brano degli anni 30. Direttore, purtroppo siamo veramente in chiusura, e noi ti ringraziamo per l'interessante contributo di questa sera, ci ha fatto veramente piacere averti ai nostri microfoni. Grazie a voi, a Annalisa, Alessandra, Michele e Maurizio, e un ringraziamento anche al pubblico che ci ascolta, ragazzi. Grazie direttore, un abbraccio e a presto. A presto, buona serata a tutta la famiglia. Cari radioascoltatori, siamo giunti in chiusura. Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per giovedì prossimo. E ovviamente un grazie a Michele per la regia. Grazie a tutti, a voi. Buona serata.